Svegliatevi dal sonno, briaconi, che giunta è per voi la gran cuccagna. Si mangerà di polli e di piccioni e verdi vin che viene dalla campagna. E la menica con il cembalo la frullana suonerà. E la menica con il cembalo la frullana suonerà. Viva la lora! Sarà dei nostri anche Beppin di noce, e disse pur che porta l'organino. Giusto ne compro uno e se te pace lo fa cantar che sembra un cardellino. Gli è un tremoto, un accidente, tutti i versi li sa fa. Gli è un tremoto, un accidente, tutti i versi li sa fa. Viva la lora! L'amor si fa in campagna e non al mare. Venite tutti quanti qui a ballare. Anche quest'anno. E la menica con il cembalo la frullana suonerà. E la menica con il cembalo la frullana suonerà. Viva la lora! Saranno insieme coi vostri le mondine che canteranno le loro canzoncine. Le ore passeranno di gran fretta, arriveremo presto alla mattina. E la menica con il cembalo la frullana suonerà. E la menica con il cembalo la frullana suonerà. Viva la lora! E la menica con il cembalo la frullana suonerà. E la menica con il cembalo la frullana suonerà. E la menica con il cembalo la frullana suonerà.